Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero corrente postale 6180 4001, oppure si può andare sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è sostieni per le modalità telematiche di finanziamento. Tra qualche istante, anzi subito, Visionari, l'appuntamento con il cinema per questo giovedì 31 marzo del 2016. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sulla colonna centrale dell'home page, la voce trasmissioni Visionari, e poi sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Cominciamo con i collegamenti. Eccoci con Andrea Legni di Distribuzioni dal Basso per parlare con lui delle novità del mese, tra le quali c'è anche un suo lavoro. Giusto Andrea, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie del benvenuto, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Quale petrolio, giusto? È questo il titolo? Esatto, è questo. Di cosa si tratta, Andrea? Allora, quale petrolio? Diciamo che è un documentario d'urgenza, se così possiamo chiamarlo, nel senso che con la casa di produzione con la quale lavoro qua a Bologna, SMK Video Factory, eravamo al lavoro da un po' di tempo su un documentario che voleva analizzare un pochino quella che è la strategia energetica nazionale. Quale petrolio? Sostanzialmente è un lavoro d'urgenza, perché nel momento in cui ci siamo trovati con molto materiale a disposizione che avevamo tirato in questi mesi, che raccontava un pochino quella che è la realtà dell'industria fossile, dell'estrazione di petrolio e gas in Italia, nel momento in cui è stato annunciato il referendum, ci è sembrato necessario rendere pubblico in qualche modo questo materiale e cercare di dare uno spaccato di quella che è la questione, appunto, delle trivellazioni in Italia. Per cui Quale petrolio? Diciamo che è un documentario che attraverso una serie di interviste esperti e di informazioni grafiche anche che sono incluse all'interno del documentario, racconta un pochino i dati necessari per capire un po' quella che è la realtà delle estrazioni in Italia, e poi all'interno del quale sono presenti anche una serie di focus territoriali che abbiamo registrato essenzialmente in febbraio, tra gennaio e febbraio, in Basilicata, che è la regione italiana dal quale si estrae il 70% del petrolio totale nazionale, dove ci sono tutta una serie di conseguenze per la salute, sulla salute, sull'ambiente e sulle economie territoriali, delle quali insomma non si sa molto, e che abbiamo cercato di documentare, e poi anche a Taranto, nel Golfo di Taranto, che è, diciamo, una realtà già colpita, e lo sappiamo tutti, da decenni di politiche industriali legate all'ILVA e a varie industrie pesanti e impattanti che sono presenti sul territorio, ed è anche, diciamo, negli ultimi anni il Golfo di Taranto diventato forse la zona di mare maggiormente interessata dalle ricerche di ricerca di idrocarburi provenienti da compagnie petrolifere di tutto il mondo, e con una serie di problematiche anche qui legate alla salute del mare, anche all'economia tradizionale, alla pesca, al turismo, insomma. Bene, questo per quanto riguarda le fonti energetiche fossili. E poi per quanto riguarda invece le altre novità di questo mese per Distribuzioni dal Basso, cosa ci segnali? Allora, questo mese su Distribuzioni dal Basso ci sono altri due documentari che credo molto molto interessanti. In particolare ospitiamo sul portale un documentario che si chiama Fondi rubati all'agricoltura, ed è un documentario che ha vinto il premio Morrione per le inchieste giornalistiche nel 2015, realizzato da Alessandro Di Nunzio e Diego Gandolfo, Questo documentario sostanzialmente svela come i fondi europei per l'agricoltura siano finiti nelle mani spesso del crimine organizzato e anche della mafia. Si parla e si porta testimonianze di contadini che sono stati anche minazzati di morte o costretti, spinti ad abbandonare le proprie terre da parte, insomma, di personaggi legati alla malavita intenzionati ad appropriarsi di queste terre per poi chiedere i famosi fondi europei destinati all'agricoltura. E poi praticamente si parla anche dell'assenza di controlli che ci sono rispetto a questo che è un business milionario che molto spesso ha molto poco a che fare appunto con l'agricoltura e molto con la malavita. Sì. E questa è un'inchiesta molto molto interessante. E poi ospitiamo anche un documentario del collettivo Frame Off, che è un collettivo di documentaristi siciliano, è un documentario che si chiama Camminante e praticamente ci racconta la vicenda dei camminanti, che sono sostanzialmente una comunità di qualche migliaio di persone, molto diffuse in Sicilia e in particolare anche nella città di Noto, che è quella in cui è realizzato il documentario. Sì. I camminanti sostanzialmente sono una comunità seminomade che girano per la Sicilia e l'Italia, spesso facendo alcune attività per le quali sono molto riconoscibili in Sicilia, cioè sono quelli che spesso vendono i palloncini alle fiere oppure lavorano come arrotini, ombrellai, stagnini, e continuano così la tradizione che era dei vecchi carrettieri. Altri di questi invece vivono più isolati all'interno del quartiere. Questo Camminante praticamente è un documentario che ha avuto una gestazione anche molto lunga, perché gli autori dei ragazzi di Frame Off hanno vissuto insieme a loro, condiviso le giornate per parecchi mesi, per anche stabilire un rapporto di fiducia con una comunità che tendenzialmente abbastanza chiusa, e per cui ci racconta le loro esperienze, i loro mestieri, le loro storie, le opinioni, i momenti della loro vita comunitaria, dandoci così un ritratto di questa comunità, diciamo. Sì. E per quanto invece riguarda l'archivio di Distribuzioni dal Basso, che è sempre una sezione molto attiva e sempre in continuo sviluppo, ci sono novità? Allora, in questo senso l'archivio storico, diciamo, continua ad arricchirsi di vari lavori. Ormai è una sezione, diciamo, importante all'interno di Distribuzioni dal Basso e crediamo anche particolarmente interessante anche per scopi di ricerca. In particolare continua, diciamo, ad arricchirsi di documenti tratti dagli anni 70 italiani, per cui storie di lotte studentesche, lotte nelle fabbriche. Ci sono anche alcuni documentari, diciamo, tratti da questioni più recenti, Donne e uomini delle Brigate Rosse, che parla appunto di vicende di brigatisti, un documentario sull'immigrazione a Bologna nei primi anni 90, e poi appunto tutta una serie di documenti anche che trattano anche di questioni, diciamo, anche meno politiche, almeno ad un primo impatto, diciamo così, per cui la storia del Sampoli, squadra tedesca, diciamo, abbastanza nota per il fatto di avere la tifoseria, diciamo così, più anticonformista del panorama tedesco, antirazzista, antifascista, e poi insomma tutta una serie di documenti che vi invitiamo ad andare a vedere, perché poi la sezione archivio storico nella sua quasi totalità e anche i documenti inseriti sono visibili immediatamente in streaming attraverso il sito, per cui basta andare su www.distribuzionedalbasso.com e lì c'è la sezione archivio storico che insomma contiene tutti questi materiali ed è in continuo aggiornamento. Andrea, io ti ringrazio, ci sentiamo probabilmente il prossimo mese per le novità di aprile. Va bene, benissimo, grazie a voi. Un abbraccio, a presto, ciao. Grazie, ciao. Andrea Legni di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Eccoci con Michele Aiello, coautore del documentario Fuori Classe, per parlare con lui della campagna di crowdfunding per la distribuzione appunto di questo titolo. Michele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, buongiorno anche a tutti che ci ascoltano. Cominciamo col parlare del progetto Fuori Classe, come è nato e come si è sviluppato. Fuori Classe, sì, è un documentario che parla di 6 esperienze pedagogiche realizzate all'interno dell'orario scolastico, quindi diciamo una cosa che ci interessava raccontare era questa modalità di fare lezione in modo differente e andare a vedere quali esperienze riuscissero a avere un impatto sulla lezione, però con una modalità diversa, laboratoriale, orizzontale, e facendo fare le cose ai bambini. E nasce un po' da quel percorso con Zalab, con l'associazione culturale Zalab, avevamo portato avanti col bando della prima scuola, in cui si era con il lancio del film di Andrea Segre, La prima neve, era fuori una raccolta fondi in cui praticamente, sì, scusa Federico, qui si finanziavano alcuni laboratori, ne abbiamo finanziati 11, tra questi 11 poi siamo riusciti a individuarne 3 e abbiamo raccontato il documentario insieme ad altre esperienze che cerca dei laboratori da raccontare, ne abbiamo provato a individuare gli altri per ti, non fare una ti sento un po' disturbato la linea. Ok, mi senti adesso? Adesso meglio, sì. Okay. Michele, la scelta di questi 3 laboratori, come su quali basi l'avete fatta? Allora, i laboratori in totale del documentario sono 6. E sì. Noi abbiamo i 3 che partono dall'esperienza della prima scuola. Insomma, abbiamo contattato i referenti, ci siamo informati un po' sulle tappe, le varie fasi del laboratorio e contestualmente abbiamo provato a contattare altri laboratori in giro per l'Italia che avessero le stesse modalità e poi ne abbiamo trovati diciamo 2, uno a Padova realizzato da degli insegnanti all'interno dell'orario curricolare e un altro invece a Roma aveva partecipato alla prima scuola ma non era stato selezionato ed è poi diventato un po' il laboratorio di guida un po' la storia del documentario del laboratorio orario che c'è alla Perlasca di Montecucco. Senti, quali sono gli elementi qualificanti di queste esperienze? Diciamo che è la costruzione dell'attività insieme ai bambini, quindi l'educatore costruisce il percorso insieme ai bambini e cerca di farlo con il coinvolgimento degli insegnanti. Il bambino fa le cose su cui poi lavora, su cui poi apprende, quindi il sapere non è verticale ma è orizzontale in un certo qual modo, questo funziona più rispetto a questo un po' si intravede, però diciamo che è interessante questa disponibilità degli insegnanti ad aprire la classe nelle ore in cui avrebbero altre lezioni e fare lezioni in un modo diverso. Senti, quali sono le età coinvolte? Parlo rispetto ai bambini e poi le scuole sono un po' sparse su tutto il territorio nazionale? Sì, le età coinvolte sono quarta elementare, terza elementare, ci sono state anche alcune un paio di quinte, quindi parliamo di età tra gli 8 e i 10 anni. E le 6 scuole sono proprio in 6 regioni diverse, quindi c'è Padova, c'è Rho in provincia di Milano, c'è Ronta nel Mugello toscano e Montecucco appunto a Roma, sì, sì. A Napoli in un quartiere un po' di periferia che si chiama Scarelli, diciamo vicino a Gianturco, attaccato all'ex quartiere industriale di Gianturco, e poi c'è Cracopeschiera che è connesso al vecchio paese di Craco, che franò a più riprese dagli anni 50 in poi e quindi è stato abbandonato e è stato ricostruito un altro paese a valle che insomma, e quindi è la campagna lucana nel Materano. Senti, ci spieghi un po' di questa campagna di crowdfunding per la distribuzione del documentario? Sì, ovviamente il film ha cercato di, nella filosofia di Zara, di essere indipendente, quindi abbiamo la produzione, questa produzione veneziana, 360 degrees film, che, con cui abbiamo trovato i finanziamenti da Rai Cinema e poi per la distribuzione dalla Fondazione San Zeno, però è necessario avere anche altre risorse per fare in modo che il documentario si diffonda il più possibile, soprattutto per creare discussione intorno al tema di fare lezioni in un altro modo, diciamo. E quindi abbiamo attivato questa campagna di crowdfunding per dare la disponibilità, la possibilità di realizzare più proiezioni possibili, soprattutto collegate alle scuole, perché le scuole e le associazioni negli ultimi anni hanno sempre più difficoltà a creare momenti di incontro, e il documentario può fornirlo, però noi vorremmo cercare di offrire questa possibilità anche, insomma, gratuitamente. E quindi più andrà bene questo crowdfunding e più riusciamo a fare una distribuzione più capillare possibile. Allora ci sentiremo quando sarà giunta al termine la campagna, e quindi avremo nelle sale fuori classe, avremo modo anche di riparlarne, quindi. Sì, se posso dare due appuntamenti, certo, su Roma. Certo. C'è l'11 aprile all'Apollo, abbiamo una giornata di crowdfunding dedicata su Roma, dove ci sarà Franco Lorenzoni che presenta il suo documentario elementare. All'Apollo 11. All'Apollo 11. E sarà introdotto anche dal coro della Iqbal Masik, Sesta Voce. E poi le anteprime su Roma, diciamo, sono due, diciamo che è il 18 al Farnese e il 21 all'Apollo di nuovo. Benissimo. Allora ci sentiamo più in là quando uscirà in sala. Ok, grazie mille. Un abbraccio. Ciao Michele. Ciao, arrivederci, buon lavoro. Michele Aiello per parlarci della campagna di crowdfunding per la distribuzione del documentario Fuori Classe. In collegamento con Martina Parenti e Massimo Danolfi, registi del documentario L'infinita fabbrica del Duomo, in uscita in sala oggi giovedì 31 marzo. Ben ritrovati, ci siete? Ciao, ben ritrovati. Siamo in viva voce, quindi vi abbiamo tutti e due contemporaneamente. Ne avevamo già parlato del vostro lavoro un po' di tempo fa, dopo il passaggio a qualche festival, stavolta esce in sala. E allora, torniamo a parlarne, soprattutto per chi ci ascolta, spiegando come è nato il progetto. Ma erano tanti anni che pensavamo di fare un film su un'istituzione così importante della nostra città come la cattedrale, insomma. Poi dopo si è realizzata questa possibilità di fare il film. All'inizio volevamo così avvicinarci al Duomo come se fosse come il castello, come l'aeroporto, come avevamo fatto con l'aeroporto del castello, insomma, come se fosse un'istituzione cittadina. E poi piano piano invece ci siamo resi conto che era più interessante provare a pensare al Duomo come un'opera collettiva, fosse il Duomo come una piramide, una moschea, una sinagoga, insomma qualche cosa che appartiene a tutte le persone che ne hanno preso parte attraverso i secoli alla costruzione, ecco. Senti, questa ricerca dove vi ha portato? Sì, è stato un viaggio delle riprese, è durato per più di un anno, direi circa un anno e mezzo, e la cosa più sorprendente forse per me è stata la scoperta del Cimitero delle Statue, che questo luogo si chiama Cimitero delle Statue, un nome che hanno dato gli stessi marmorini che lavorano lì a Cantiere Marmisti in Piazza Cacciatore delle Alpi a Milano, ed è un luogo dove in qualche modo vanno a morire le statue che dalla cattedrale scendono quando sono ormai deteriorate dal tempo, dagli agenti atmosferici. Il marmo di Candoglio è un marmo estremamente delicato e quindi si scretola facilmente, e quindi le statue erano sostituite e rifatte, ma da circa 100 anni appunto le statue che scendono giù dal Duomo riposano in questa sorta di cimitero, dove come una sorta di Lego del Duomo smontato, dove ci sono pezzi di guglie, pezzi di statue, arti delle statue. Insomma, la scoperta di quel luogo per me è stata fondamentale, perché in qualche modo abbiamo capito che il film aveva una sua forza, una sua potenza. Mm-hmm. E l'altra cosa forse ci ha, come dire, stupito è stata quella di passare un po' di notte all'interno del Duomo per girare appunto questa scena che passiamo con il custode del Duomo all'interno della cattedrale, quando dentro non c'è nessuno. Insomma, come diceva prima Martina, il nostro non è un film sul Duomo come istituzione religiosa, ma più come su un monumento, insomma, su un simbolo. Ecco, a proposito di monumento, quanto tempo è stato impiegato per la costruzione, per completare la costruzione del Duomo, e quante persone più o meno sono state addette ai lavori? Ah, beh, quante persone non lo possiamo sapere. Ufficialmente il Duomo è cominciato nel 1386 ed è finito nel 1967. Ne sono passati secoli e secoli di generazioni di persone, insomma. Sono 600 anni di lavori. 600 anni di lavori. Senti, e poi continua ad avere comunque un laboratorio per i continui lavori di manutenzione, immagino. Sì, sì, c'è questo cantiere Marmisti a Milano, che è il posto dove le statue e le guglie vengono rifatte, le parti più leggere, le parti più pesanti invece vengono rifatte da altre parti, in altri luoghi. Però appunto lì viene lavorato tutto il marmo che arriva dalla cava di Candoglia, che è una cava esclusiva per il Duomo di Milano, ecco. E per quanto riguarda, dicevi, dei secoli per vedere l'opera completa, e c'è un archivio consultabile con tutte le trasformazioni nel corso del tempo? Sì, il Duomo di Milano è stato di fatto costruito da questo ente, questa associazione, che è la Veneranda Fabbrica del Duomo, che è una la Veneranda Fabbrica del Duomo è nata appunto nel 1386 insieme alla prima pietra della cattedrale, con la donazione che Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, fece appunto di questo pezzo di montagna da cui estrarre il marmo per la costruzione della grande cattedrale. Con questo gesto nasce appunto la Veneranda Fabbrica del Duomo, che si è occupata anche al di là di Gian Galeazzo Visconti nel corso dei secoli della costruzione del monumento, e nel Novecento ha iniziato a occuparsi invece del suo mantenimento. E la Veneranda Fabbrica del Duomo ha un archivio storico importantissimo, insomma forse tra i più importanti della città di Milano, che addirittura ha dei documenti che anche di un secolo precedente alla nascita della Veneranda, quindi parliamo di documenti del 1200. E ci sono anche vari aneddoti, anche quello appunto che Leonardo da Vinci dovesse costruire il Tiburio, però il suo progetto non era piaciuto, ha presentato un modellino, questo modellino andò perduto e pare che Leonardo si arrabbiò molto con gli impiegati, i dirigenti, insomma, della Veneranda Fabbrica del Duomo, perché gli avevano perso il modello. E è un archivio storico, diciamo, fatto da una parte documentale, quindi molto anche classica, libri mastri, pagamenti, dall'altra appunto invece, come dicevi tu prima, ci sono proprio i disegni, no? Tutta questa la stranezza del Duomo e proprio questa stratificazione dei progetti nel corso dei secoli. Era nato per essere una grande cattedrale gotica, comunque in ritardo rispetto alle grandi cattedrali gotiche europee, però poi nel frattempo si è diventato un miscuglio di più generi, ovviamente, che riflettevano anche i gusti dei secoli in cui i lavori avvenivano, come appunto le guglie, in realtà, che ora sono forse l'elemento che più caratterizza il Duomo, in realtà sono una cosa ottocentesca. Proprio dal punto di vista architettonico facevi riferimento al gotico, ed è uno dei pochi esempi in Italia di questa importanza e grandezza. Beh sì, il Duomo di Milano è una delle cattedrali più grandi del mondo, probabilmente la quinta più grande del mondo. Senti, E per allora ci racconti un po', ci raccontate un po' della distribuzione, quali sono le insomma che le modalità che verranno utilizzate per la diffusione del vostro lavoro? Allora, lo distribuisce la Lab 80, sì, di Bergamo. Uscirà in varie città, esattamente adesso tutte le date non ve le sappiamo dire con precisione. Da oggi esce a Milano. E poi sarà a Mantova, a Mezzago, a Roma, comunque in giro per tutta Italia. Credo che la cosa migliore sia guardare sul sito della Lab 80 e vedere esattamente tutte le date del film. Bene. Allora io vi ringrazio, un abbraccio e spero di risentirvi presto. Grazie a te, a presto. Ciao, ciao, ciao. Martina Parenti e Massimo Danolfi, registi del documentario L'infinita fabbrica del Duomo, in uscita in sala oggi giovedì 31 marzo. Eccoci con Pierpaolo Palladino, il regista Pierpaolo Palladino, per parlare con lui del progetto di film in crowdfunding Un Natale tra code e gelo. Pierpaolo, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, ciao Federico. Come va? Tutto bene? Abbastanza bene, siamo in preparazione del cortometraggio, appunto. Allora, come raccontaci un po' com'è nato quest'idea, visto che tu vieni dal teatro, ma anche dalla letteratura, insomma. Beh, no, la sceneggiatura di questo cortometraggio, che si chiama Un Natale tra code e gelo, viene da un radiodramma che appunto si avvicina un po' alla scrittura teatrale. Poi è stato un radiodramma fatto qualche anno fa e poi l'ho ripensato e ne ho fatto una versione cinematografica proprio per tre ragazzi che sono tre utenti della ASL di Viterbo, con cui avevo già lavorato in passato per anni con il teatro. Allora, questi tre ragazzi sono affetti da un ritardo mentale lieve, detta così semplicemente, però hanno acquisito una capacità di espressione grazie alla recitazione, al teatro, e insieme a me debuttano nel cinema, vorrebbero debuttare nel cinema, cioè loro davanti la macchina da presa e io dietro la macchina da presa, appunto. Per questo progetto che li vede protagonisti al fianco di altri attori professionisti, e abbiamo pensato anche di avviare una campagna di raccolta fondi proprio, sì, per far condividere questa scommessa con più gente possibile, perché è difficile poi trovare una produzione che possa puntare sullo 3, insomma è un esperimento che non è commerciale, no? Certo. Può essere, noi pensiamo che sia artistico oltre che abbia un valore sociale. Io penso che loro abbiano qualcosa da dire, la sappiano dire molto bene, e quindi ho puntato tutto su loro tre e ho cominciato apposta con il tentativo di questa campagna che ancora è in corso, proprio per girando insieme a loro dei filmati a Viterbo, a Rieti, durante le prove, per poter mostrare sul sito di Indiegogo. Se uno digita il nome del film, una volta che è sul sito di Indiegogo, Un Natale tra code e gelo, gli si apre la pagina del progetto e vede tutti i filmati che abbiamo fatto, in modo che anche su Facebook, okay, con lo stesso il titolo del film, Un Natale tra code e gelo, Facebook, può vedere i vari filmati che abbiamo fatto, sono anche molto divertenti, con loro tre protagonisti, e le indicazioni su come poter contribuire. Anche la quota minima è 10 euro, ma uno può mettere quanto vuole, e in cambio ci sono dei gadget, le foto con dediche, insomma dei modi divertenti, sì, per poter ringraziare chi ha voluto condividere in piccolo questa scommessa. Pierpaolo, questo titolo come viene fuori? È perché Un Natale tra code e gelo, perché lo scrissi per il periodo di Natale, quando era in forma di radiodramma, e perché parla di tre operai che sono stati dimenticati dentro un capannone in disuso a controllare un po' i macchinari che stanno lì, una sorta di garage, no? E sono tre precari, sono in prova, quindi sono anche simbolo della precarietà di oggi nel mondo del lavoro, anche della classe operaia, insomma, che è addirittura dimenticata più che bistrattata, e rimpiangono di non stare a casa a poter fare anche loro il Natale. E allora uno di loro in particolare rimpiange la possibilità di avere il presepe, ed essendo tre anime semplici, diciamo, che credono anche come dei bambini nella magia, nella realtà, io ho potuto operare una sorta di scrivere un realismo magico, per cui bussa alla porta e appare un travestito, e questo travestito poi si comincia, cioè, si capirà a un certo punto che è un angelo, e poi oltre al travestito, che si chiama Angela appunto, busseranno una coppia, marito e moglie, giovanissimi, di cui lei è incinta e sta per partorire. Si chiamano casualmente Maria e Giuseppe, insomma. Poi ci arrivano altri tre colleghi per vedere come va, portano qualcosa da mangiare, uno di loro è nero come Baldassarre, no? Insomma, è abbastanza divertente in chiave di commedia, è una novena laica, apocrifa possiamo dire, apocrifa, in cui l'angelo e lo Spirito Santo è un travestito, ma gli angeli non hanno sesso. Tutto fatto sul candore di loro tre, che ci credono molto in quello che stanno facendo, ed è un modo per mostrare come si può essere diversamente abili senza necessariamente parlare di questo argomento. Perché loro appunto, vediamo in cosa altro sono abili, no? Certo. I tre attori protagonisti, certo, che si chiamano, guarda caso nel film, Gabriele, Michele e Raffaele, cioè come i tre arcangeli. Ecco, insomma, il realismo magico è un po' in questo: anche una fabbrica in crisi o in disuso può essere l'equivalente, può accogliere l'equivalente di una capanna di come 2000 anni fa. Pierpaolo, allora i riferimenti ce li hai dati, io ti ringrazio, magari ci sentiamo a realizzazione compiuta del progetto. Io volevo solo dire, certo, che vai, la campagna finirà il 7 di aprile, quindi 7 aprile. C'è ancora una settimana, insomma, abbondante. Volevo solo ricordare che chi vuole capire come poter contribuire o comunque avere maggiore informazione può andare su Facebook e cercare Un Natale tra code e gelo, e invece su Indiegogo, con Google Indiegogo è un sito americano dove c'è in versione sia italiana che in inglese, digitando sempre lo stesso titolo, Natale tra code e gelo, e lì verrete informati di tutto. Bene. Grazie. Ciao Pierpaolo, e tra l'altro io sono in attesa anche di un tuo lavoro registrato, lo sai bene, no? Certamente, lo so bene, l'Albergo Rosso. Albergo Rosso. Creiamo un po' di suspense. Creiamo un po' di suspense. Da un'intervista all'altra. Esatto, anche perché prima o poi riusciremo a mandarlo in onda e ci risentiremo nuovamente per parlarne. Con Ninetto Davoli. Con Ninetto Davoli. Benissimo, io ti abbraccio, spero a presto Pierpaolo. Grazie mille, grazie a tutti voi. Ciao. Ciao, ciao. Pierpaolo Palladino per parlarci del progetto di cortometraggio in crowdfunding Un Natale tra code e gelo. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. In linea abbiamo Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Love and Mercy, in uscita in sala oggi, giovedì 31 marzo. Mattia, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buona giornata. Allora, una bella storia, si parla di una band che ha segnato un periodo storico ben preciso. Raccontaci un po', Mattia, di questa storia. Sì, allora il film racconta la storia di Brian Wilson, che è considerato il leader dei Beach Boys, ed è uno sguardo un po' diverso, perché noi siamo almeno storicamente abituati a pensare ai Beach Boys come un gruppo dalla musica spensierata, dalla leggerezza ad ogni costo, e invece questo film, che racconta la storia appunto del leader di Brian Wilson, ci racconta che cosa c'era dietro, e quindi racconta la storia di un personaggio molto molto complicato, che è stato universalmente riconosciuto come uno dei geni della musica pop, da Paul McCartney a molti altri. Hanno poi ristabilito Brian Wilson dove doveva stare, quindi all'interno del gota della musica pop, e ci racconta come lui partoriva il suo processo creativo, e il suo processo creativo era in qualche modo legato al fatto che lui era una persona molto molto molto complicata, gli fu diagnosticata anche una sorta di schizofrenia, e poi dai la storia prosegue e lui troverà la sua redenzione, il suo equilibrio attraverso l'amore di una donna. Anche perché è passato anche attraverso delle cure di una persona che comunque voleva approfittare di sé e lo stava annientando. Anche questa è una pagina abbastanza controversa, perché anche questo ovviamente è tutto vero, perché il film è stato realizzato con la collaborazione di Brian Wilson e della moglie Melinda, che è quella che poi in qualche modo è riuscita a sottrarlo alle cure dello psicoterapeuta di cui parlavi tu, che si chiama Eugene Landy, e che in qualche modo è stato anche poi riconosciuto colpevole di essersi approfittato della condizione di malattia di Brian Wilson, al punto tale che risulta anche compositore di alcune canzoni di Brian Wilson. Questa è una cosa un po' particolare. Senti, dicevi della genialità comunque della sua figura, tra l'altro ricordo un pezzo che ha segnato anche un salto rispetto alla produzione precedente dei Beach Boys, che lui poi tende a sottolineare nel film. Erano odiati dagli stessi surfisti, che in teoria avrebbero dovuto rappresentare nell'immaginario. Brian Wilson in realtà non ha mai o almeno per lungo tempo non è venuto in Europa perché aveva paura dell'acqua, che è una cosa stranissima per un gruppo associato alla spiaggia, al surf, tutto quanto. Lì in realtà aveva paura dell'acqua. E dicevo di un pezzo che ha segnato anche una cesura, Good Vibrations, che rappresenta un salto rispetto alla produzione precedente e ha mostrato le capacità non solo compositive ma anche poi di realizzazione di questo artista. E tutto comunque ci viene servito anche grazie a una grande interpretazione di un grande cast. Sì, il film segue due piani temporali distinti, perché nella prima fase vediamo Brian Wilson, diciamo, durante la fase d'oro della sua carriera, quindi durante le registrazioni di Pet Sounds, che è universalmente riconosciuto come uno dei capolavori poi sia della produzione dei Beach Boys ma anche della musica pop contemporanea, e in questa fase è interpretato da Paul Dano. E invece nell'altro piano temporale del film, che si riferisce agli anni '80, lo stesso Brian Wilson, che si trova in cura per così dire da Eugene Landy, viene interpretato da John Cusack. Insieme a loro troviamo un cast di supporto che anche qui è molto importante, perché Melinda è interpretata da Elizabeth Banks e Eugene Landy da Paul Giamatti, e sono tutte prestazioni attoriali veramente strepitose. Mattia, per questa distribuzione quante sale mostreranno Love and Mercy? Una quarantina di sale, insomma, un'uscita insomma di tutto rispetto. Per saperne di più si può fare riferimento al sito della Adler? Si può fare riferimento al nostro sito, in particolare a una pagina Facebook che abbiamo curato in maniera molto molto molto precisa, che è facebook.com/loveandmercyit, e comunque anche andando sul nostro sito poi trovate il link direttamente alla pagina Facebook. Mattia, un abbraccio, spero di sentirti presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Love and Mercy, in uscita in sala oggi giovedì 31 marzo. Allora, intanto vi ricordo anche i nostri riferimenti: 87.9 la modulazione di frequenza, potete ascoltarci però anche in streaming dal sito internet della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Vi ricordo le informazioni, le trovate per quanto riguarda la trasmissione con la scaletta e tutto sul sito della radio, sulla colonna centrale trasmissioni visionari. sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E siamo in collegamento ora con Roberto Proia di Eagle Pictures per parlare con lui della distribuzione del film Race, Il colore della vittoria, in uscita in sala oggi giovedì 31 marzo. Roberto, ben ritrovato. Ciao a tutti, come va? Bene, tu raffreddore permettendo. tutto abbastanza bene. Dai, abbastanza bene. Allora, un film importante al quale ho dedicato la copertina di questa settimana con una foto dell'originale che sta scattando in pista in bianco e nero. Raccontaci un po' di questa storia, Roberto. Ma il film è la storia di Jesse Owens, o almeno prende a pretesto la storia di Jesse Owens, il pluricampione mondiale alle Olimpiadi di Berlino, per raccontare una storia che parla di valori sportivi innanzitutto, di valori umani e di ciò che può fare lo spirito umano al di là dell'odio, del razzismo e di tutti gli impedimenti che incontriamo ogni giorno sulla nostra strada. La storia di Jesse Owens è abbastanza, come dire, straordinaria, perché comunque parliamo di ragazzi di colore che nel 1936 vinse 4 ori a Berlino, un primato che rimase ineguagliato fino al 2000, e al 1994 a Los Angeles Carl Lewis appunto lo eguagliò. Ma parliamo di una persona nata povera, di un ragazzo veramente che con la forza di volontà è riuscito a sfidare sia il razzismo che aveva in patria, quindi qualificarsi per le Olimpiadi, sia poi chiaramente il razzismo di una Germania che si preparava alla pulizia etnica. Quindi davanti a Hitler, con grande stizza del Führer, riuscì a battere tutti, Germania compresa. Che non lo salutò, tra l'altro. Che non lo salutò, ma in realtà lo smacco più grosso lo ebbe il ritorno in patria, perché continuava a non essere riconosciuto. Il presidente americano, proprio perché erano prossime le elezioni, decise di non riceverlo alla Casa Bianca, e addirittura si vede nel film, nella festa in suo onore venne fatto entrare dalla porta di servizio, perché i neri potevano fare solo quello. Ecco, infatti uno degli elementi più interessanti nel film è il suo dilemma rispetto alle partecipazioni alle Olimpiadi, perché da una parte c'era la comunità afroamericana che lo spingeva a non partecipare, e anche perché il dilemma era correre sotto i colori degli Stati Uniti, che comunque erano una società ancora profondamente razzista, soprattutto negli stati del sud dove lui era nato e cresciuto, e andare a correre e sfidare una nazione che il razzismo ce l'aveva come programma dichiarato. E da lì la scelta è più come un misurarsi con i propri limiti, come poi la scelta di ogni artista legato all'atletica leggera, soprattutto all'atletica leggera, che non è uno sport di squadra, ma anche come strumento di riscatto rispetto alla propria condizione sociale. Lui era, come dicevi tu, era nato molto povero. Sì, diciamo che nel film si dipinge molto bene il dilemma davanti al quale viene posto questo ragazzo di 22 anni, un ragazzo che vede in queste Olimpiadi la sua grande occasione, ma gli viene detto da un crescente diciamo sindacato per la tutela dei diritti dei neri, gli viene detto: se tu partecipi fai un danno alla tua stirpe. Quindi insomma, da un lato appunto è la sua grande occasione, dall'altro non sa se farlo, perché se lo facesse tradirebbe la sua stirpe, ma allo stesso tempo lui ha una famiglia da mantenere, ha già una bambina, insomma è molto molto complicato per lui scegliere. Alla fine saranno proprio i suoi amici che lo spingeranno ad andare a dimostrare invece ciò che poi ha dimostrato, ovvero che comunque delle Olimpiadi nate per promuovere la razza ariana e la supremazia atletica degli ariani sono state invece umiliate da un ragazzo di colore che viene da un paese nemico come gli Stati Uniti. E tra l'altro in quelle stesse Olimpiadi, per ragione di Stato, due artisti di religione ebraica dagli Stati Uniti non furono fatti partecipare per rispondere a una richiesta precisa della Germania nazista. Sì, perché Jesse doveva partecipare soltanto in tre gare, ovvero i 100-200 e il salto in lungo, però visto che l'America stava vincendo troppo diciamo il Führer, anche Goebbels nello specifico, chiese ed ottenne dagli Stati Uniti che due atleti della staffetta ebrei non partecipassero, e quindi li hanno sostituiti con Jesse e con un altro atleta di colore, e proprio la presenza di Jesse ha fatto sì che vincesse anche la quarta medaglia, entrando così nella storia. Senti Roberto, come avete incontrato questo film e come avete poi deciso di distribuirlo? Ma ci hanno presentato il progetto proprio allo stadio di Berlino, dove accadero i fatti. Questo è già stato molto scenografico e anche molto furbo. La sceneggiatura era molto molto bella, ci hanno piaciuto dall'inizio perché appunto è un film molto utile, è militante, ma è anche un film, cioè non è che non si pensi che sia un documentario, perché qui è un film in cui un uomo paradigmatico di tanti di noi vince, perde, si solleva, ricade e alla fine trionfa. Questo ci ha convinto. Poi chiaramente il cast di supporto è importante, che abbiamo Jeremy Irons, William Hurt, abbiamo Jason Sudeikis nel suo primo ruolo drammatico, insomma è un bel film. Noi ci abbiamo creduto moltissimo, abbiamo infatti fatto una campagna che andava a parlare sia agli amanti dello sport assolutamente, ma anche alle donne, perché c'è una storia la storia dell'uomo, della moglie, della figlia, di ciò che cosa accade all'uomo oltre l'atleta, e poi chiaramente ai ragazzi, perché comunque questo è un film che i ragazzi devono vedere e sposare, perché veramente ti riconcilia con lo sport, ti riconcilia con certi valori che a volte sentiamo che si stanno perdendo. E Jesse è veramente, da questo punto di vista, è stato paradigmatico, quindi la sua eredità va ben oltre gli anni, come dire, e il cinema, diciamo, in questo è fortissimo ad aiutare a non perdere la memoria. Roberto, in quante sale sarà possibile vederlo? 280 sale, tante. Grandi numeri. Le merita. Bene Roberto, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. A voi, grazie mille. Ciao. Roberto Proia di Eagle Pictures sulla distribuzione del film Race, Il colore della vittoria, in uscita in sala oggi, giovedì 31 marzo. Eccoci con Ivan Cotroneo, regista del film Un bacio, in uscita in sala oggi giovedì 31 marzo. Ivan, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben ritrovati a voi. Tutto bene? Molto bene, sì. Beh, un giorno insomma di grande eccitazione, di grande felicità, anche perché dopo aver lavorato tanto a un film, insomma il momento in cui il film incontra gli spettatori nelle sale è importante, sono ansioso di sapere che cosa penseranno, se piacerà, se emozionerà, quindi è un giorno speciale. Tra l'altro c'è un aneddoto legato alla fine delle riprese, perché quel giorno a Via dei Serpenti c'era una cerimonia per l'affissione di una lapide in ricordo di Mario Monicelli, e io ho visto che lì stavate terminando le riprese, sono venuto a salutarvi, e insomma si è creato questo legame assolutamente casuale. Sì, casuale, ovviamente bellissimo, nel senso che sono stato molto emozionato di poter essere lì, perché noi ci eravamo proprio di fronte e quindi era verso la fine delle riprese, abbiamo interrotto le riprese per seguire la cerimonia, insomma, che era una cerimonia importante, un segno, ma come tutti i segni che confortano la memoria, è importante. Allora, alla base c'è un libro, e anche qui c'è da raccontare, perché insomma in un'occasione lo abbiamo anche presentato insieme in quel di Grosseto. Ivan, raccontaci un po' la genesi prima del libro e poi quello che ti ha portato al film. Sì, il libro nasce perché io ero venuto a conoscenza di un terribile fatto di cronaca accaduto negli Stati Uniti nel 2008, che è l'omicidio di Larry King, che è un omicidio consumato in una high school, in una scuola superiore, dove un ragazzino gay, dichiaratamente gay, corteggiava un suo compagno di classe che si chiama Brandon McInerney, fino a che un giorno questo ragazzo, sentendo su di sé tutta la pressione del gruppo che lo accusava di non respingere con abbastanza forza le avance di Larry, è arrivato a scuola con una pistola e ha ucciso Larry King. Questo fatto di cronaca mi ha turbato, sconvolto moltissimo, volevo fare qualcosa e ho deciso di scrivere un libro riambientando la storia in Italia, trasformandola, trovando dei protagonisti italiani, sempre adolescenti, di un libro che è stato pubblicato nel 2010, che porta il titolo Un bacio, che ha come protagonisti due ragazzi, Lorenzo e Antonio, e la loro professoressa italiana. In questi anni ho portato il libro in giro per le scuole, che era quello che mi ero fissato dall'inizio, ho parlato con i ragazzi di bullismo, di omofobia, ho partecipato anche a incontri con varie organizzazioni su questi temi, e sono stato a contatto con ragazzi, ho conosciuto delle storie belle, terribili, toccanti, e anche da parte di ragazze. E ovviamente il bullismo è uno, non solo quello legato all'orientamento sessuale, quindi non solo quello omofobico, ma ci sono diverse forme di bullismo. E quindi è cresciuta in me l'esigenza di fare ancora qualcos'altro su questo tema, di portare questo racconto al cinema, e però di farlo mettendomi all'altezza dei ragazzi, quindi scegliendo dei protagonisti solo adolescenti e raccontando anche la storia di una ragazza che nel film è blu e che nel libro non c'è, non esiste come personaggio, che raccontasse anche di come possa essere un inferno l'adolescenza per una ragazza, soprattutto per quello che riguarda i temi del rapporto col suo corpo e della gestione della sua sessualità. Senti, hai scelto per il tuo lavoro, il tuo film, un protagonista, un personaggio molto forte e strutturato, nel senso ha una forte consapevolezza di sé e anche fa uso di una grossa fantasia anche per volare sopra le meschinità del quotidiano in una realtà come è quella di provincia del nord Italia che tu racconti. Sì, ho scelto un ragazzo, Lorenzo, un ragazzino gay, 16 anni, molto consapevole del suo orientamento sessuale, per niente, molto forte, deciso anche a non nascondersi, a non vergognarsi, che difende il suo modo anche eccentrico di vestire, ha sempre la risposta pronta e brillante, uno che in una scena per me molto importante del film mostra alla sua amica blu un sito internet dove sono raccolti i necrologi, tutti i ragazzini che non ce l'hanno fatta, che si sono suicidati, sono tolti la vita, di ragazzini gay soggetti al bullismo, e lui nel film dice: io sono più forte, non farò la fine loro, io voglio vivere. E però questa sua ansia di vita, questo suo desiderio di mostrarsi per quello che è, anche con, non solo senza nessun pudore, senza nessuna vergogna, insomma, anche con sfrontatezza, scatena negli altri che non sono ancora pronti a questo una serie di reazioni anche drammatiche. Mm-hmm. Un'altra cosa che ho notato con molto interesse è un'inversione di tendenza, nel senso che nel tuo film c'è soprattutto un padre, il suo padre adottivo, molto intelligente e aperto, che si scontra con una insegnante piuttosto bigotta, e invece la cronaca ci dice un po' il contrario, perché spesso per quanto riguarda episodi di violenza nelle scuole, facevi riferimento chiaramente al bullismo e all'omofobia, troviamo degli insegnanti e delle insegnanti che si trovano di fronte a delle alle famiglie proprio, che difendono i propri ragazzi in maniera, sono spesso degli adolescenti viziati e coperti da questo punto di vista. Sì, diciamo che come dire, il panorama è molto vario. Io volevo raccontare una cosa in particolare, che cioè l'equazione per cui adolescenti disagiati corrispondono a dei genitori disattenti o incapaci di affetto non è vera. Sì. Si leggono i racconti dei genitori, sia di ragazzi bulli che di ragazzi bullizzati, sono genitori che hanno sempre creduto in buona fede di essere vicini ai loro figli, o di aver passato, nel caso dei genitori di bulli, ai figli dei valori per cui quello che loro hanno fatto risulta incomprensibile. Mm-hmm. È vero che quella è un'età in cui si sfugge al confronto, in cui per vergogna, perché molto spesso il problema della denuncia del bullismo è anche legata alla vergogna, insomma, o per vergogna o per presunzione, o perché si viene travolti da un meccanismo da cui si crede che i genitori siano esclusi o non possono intervenire, il rapporto fra genitori e figli si fa più difficile. Quello che è certo è che questa mancanza di dialogo non è sempre colpa dei genitori, insomma, anche noi abbiamo avuto 16 anni ed era un'età in cui su certi temi non ci confrontavamo facilmente con i nostri genitori. Allora, con i genitori del film io volevo raccontare un po' che queste cose, queste tragedie, questi fatti non avvengono sempre in casa da altri, che si può essere anche dei genitori presenti che cercano di fare quello che loro credono giusto, anche in buona fede, e però spesso le circostanze, soprattutto le meccaniche del gruppo, riescono ad andare anche contro questi insegnamenti, soprattutto perché io credo che i ragazzi che sentono queste discriminazioni o che le creano, se sono dei bulli all'interno delle scuole, si sente una forte di un atteggiamento sociale che su questi temi, cioè i temi del genere sessuale, l'orientamento sessuale è discriminante, insomma una società che noi viviamo in una società omofoba e sessista, è difficile dire a questi ragazzi che una volta passato il Rubicone del liceo poi si troveranno in una società inclusiva, perché non è così. Ivan, noi subito dopo Visionari abbiamo una trasmissione dalle 3 alle 4 sulle colonne sonore dei film, e non ho potuto non notare che nel tuo film, anche rispetto alla tua grande passione per la musica, c'è un grande uso della musica che va dai Placebo a Lady Gaga. Sì, il film è pieno di brani musicali, sono Placebo e Lady Gaga che hai citato, ma c'è Craig Armstrong con due brani strumentali, Lamb, c'è cioè Melisande, c'è una parte di musica anni 80 che i ragazzi scoprono negli scatoloni con il CD dei genitori, e quindi c'è Blondie, c'è sono New Order, c'è Billy Idol, e poi c'è Mika, con cui c'è stato un incontro particolare, perché un pezzo del suo ultimo CD parlava proprio della violenza che possono sì. fare delle ferite, che possono provocare le parole, quanto le parole possono essere violente, ed era talmente perfetto per la mia colonna sonora che io ho voluto conoscerlo, io ho voluto parlare del film, e da lì è nato un rapporto forte che poi ha portato anche al videoclip che abbiamo girato insieme. Insomma, lui ha sposato le idee del film. E quindi è un caso in cui la musica è veramente diventata narrazione, insomma, sì, che è una fissa che io un po' ho in tutte le cose che faccio. Sì. E quindi magari prossimamente, chissà, ti inviteremo per la colonna sonora del tuo film. va bene, molto volentieri. Posso parlare sia di quelle dei miei film e di quelle di altri a lungo. Bene. L'argomento mi piace molto. Senti Ivan, da oggi nelle sale, in quante sale esce Un Bacio? 190 circa, 190 sale. Importante, sì. Sì, sono molto contento, sono anche contento perché è un film che ha per protagonisti tre esordienti, e questo per me ha un senso, raccontando questa storia, molto profondo. E poi posso dire anche che sono molto contento di averlo fatto, perché noi non viviamo in un paese per giovani, viviamo in un paese in cui i ragazzi che vanno a cercare il primo impiego, questo in qualunque campo, si richiede immediatamente un curriculum, anche quando sono, cioè da qualche parte dovranno cominciare questi ragazzi. E aver scelto tre ragazzi che sono il loro esordio sullo schermo mi riempie di felicità e anche di orgoglio, e credo che loro abbiano dato al film una luce speciale. Abbiamo parlato dei ragazzi, della musica, ma c'è anche un grande direttore della fotografia che è uno dei migliori in circolazione. Sì, uno dei migliori al mondo, secondo me. C'è Luca Bigazzi, che oltre ad essere più ripremiato, ha firmato tutta la fotografia dei film, tutti i film di Sorrentino, di tantissimi grandi autori, e con me dal mio primo film, della Criptonite, lui ha fatto con me anche Una mamma imperfetta, credo che sia l'unica webserie che è che Bigazzi abbia all'attivo, e il rapporto con Luca è un rapporto per me molto importante, perché ovviamente significa avere sul set un professionista capace di qualsiasi cosa, ma soprattutto Luca è un uomo di grande ascolto, che con cui abbiamo parlato del film e della luce necessaria per il film a lungo. E poi devo dire che una cosa che quando succede nel lavoro è bellissima è anche un amico con cui condividere tutti i pensieri, non soltanto quelli legati alla luce del film. Ivan, è stato un piacere, spero di risentirti presto. Piacere mio, spero di risentirti anch'io molto presto. Un abbraccio, ciao. Grazie, no, un bacio, grazie. Un bacio, ciao. Ciao. Ivan Cotroneo, regista del film Un Bacio, in uscita in sala oggi giovedì 31 marzo. Parliamo ora di festival, siamo in collegamento con Alessandra Speciale, co-direttrice della 26esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 4 al 10 aprile prossimi. Alessandra, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, eccomi. 26 edizioni, qui i numeri sono cominciano ad essere notevoli. Inquietanti. Se pensi che sono dentro in questo festival dalla prima edizione. Oh. Senti Ale, allora un festival importante, ha una sua unicità qui in Italia, l'Asia e l'America Latina, tre continenti, Africa, Asia e America Latina, tre continenti importanti e che sono anche dal punto di vista cinematografico una fonte inesauribile di novità e punti di vista. Ma sì, sicuramente novità e punti di vista, due degli obiettivi principali del nostro festival, che 26 anni fa è partito con questi obiettivi e che ancora rimangono validi, anche se chiaramente il panorama cinematografico del nostro paese un po' è cambiato, però per quel che riguarda la presenza di film di questi continenti diciamo non molto. Mm-hmm. Anche se io ci tengo sempre a sottolineare che non è un problema solo di Africa, Asia, America Latina, se vogliamo, ma anche di tanto altro cinema, ad esempio buon cinema europeo. È un po' un problema di cinema di qualità che si vede poco sui nostri schermi. Mm-hmm. Senti, parliamo un po' di numeri oltre a quello dell'edizione. Quante sono le opere presentate in questa edizione? Allora, presentiamo 50 film, tra l'altro appunto con ben 17 film in prima nazionale e 6 in prima europea. Abbiamo anche 4 prime mondiali quest'anno, quindi siamo molto contenti, non perché le prime siano diciamo importanti, ma perché secondo me danno l'idea anche della ricerca che facciamo per questo festival. Fai conto che ci siamo visti più di 600 film e quindi ne portiamo 50 che sì, sono proprio il frutto di un grande lavoro. Sì, sì. Senti, le tematiche più affrontate in questi lavori, c'è un filo conduttore o dei fili conduttori? Ma guarda, cioè, innanzitutto abbiamo dato un titolo al festival di quest'anno, un claim, per usare un termine ormai caro alla comunicazione, che è Design Futures, che perché sia perché abbiamo fatto una sezione tematica su questo tema, in particolar modo rivolto all'Africa, quindi abbiamo voluto orientare la scelta tematica dei film di quest'anno, quindi non il concorso, quindi le sezioni parallele, e anche la scelta di una mostra fotografica che ci tengo a sottolineare meravigliosa, che si chiama Design Africa 3.0, con foto che arrivano da giovani fotografi africani dal Lagos Photo Festival, che è un festival di fotografia tra i più lanciati in questo momento in Africa. Quindi una visione molto urbana di creatività rivolta a quella che per noi vuole essere l'Africa di oggi, ma soprattutto l'Africa del futuro e l'immagine dell'Africa del futuro. Mm-hmm. E quindi vedremo, ripeto, insieme bellissime foto e anche questi film di questa sezione che ci raccontano un po' l'Africa rivoluzionaria, quindi da un punto di vista anche politico. E quindi si parlerà delle rivoluzioni ad esempio in Senegal o in Burkina Faso, che di cui si è parlato molto poco ad esempio con i media, perché sono state un po' adombrate dalle rivoluzioni della primavera araba, e poi anche però di rivoluzioni artistiche, quindi per citare alcuni film, The Revolution Won't Be Televised di Ramatiao, che viene dall'ultimo Berlino dove ha preso il premio Fipresci, oppure Une Révolution Africaine, oppure Black President, che è appunto un film che arriva dal Sudafrica, che è una docu-fiction di riflessione sull'essere artista in Africa oggi. Invece, per quel che riguarda il concorso, trovare delle tematiche forse no, perché noi la nostra selezione chiaramente la facciamo sulla base dei film che ci colpiscono, che quindi che per il loro linguaggio, la loro originalità. Però posso dire che abbiamo riscontrato un filo conduttore, un filo rosso conduttore in alcuni dei film del nostro concorso, non voluto, involontario, ma presente, che tratta proprio del disagio giovanile. Cioè ci siamo resi conto che 4 film su 10 hanno come protagonisti dei ragazzi giovanissimi in rottura con gli schemi e in ricerca di giustizia, quindi una reazione direi molto attiva e molto forte dei giovani sia di Africa, Asia, America Latina, la società e i continenti. Oh, Alessandra, allora parliamo di tre aree piuttosto estese, tre continenti, però ci sono delle aree geografiche più in fermento per quanto riguarda le proposte culturali e cinematografiche che avete visionato e che proporrete? Ma sai, l'Asia la fa sempre un po' da padrona, nel senso che la devi tenere d'occhio, perché è chiaro che nella selezione riceviamo moltissimo dall'Asia, anche perché l'Asia è un continente enorme che comprende dai film medio orientali a quelli dell'estremo oriente, quindi puoi immaginare, no? Mm-hmm. Che cosa arriva di tutto, e rispetto ad esempio all'Africa ha una produzione molto, molto maggiore. Noi manteniamo un cuore africano perché siamo nati come festival del cinema africano, per cui cerchiamo comunque di mantenere sempre una balance tra questi continenti. E quest'anno in effetti appunto abbiamo dedicato la sezione tematica del Design in Futures più all'Africa, a questa idea che vi dicevo di Africa del futuro. Però a proposito, esempio, scusa se ti interrompo, ma a proposito sì. Di continenti, però ci sono sì. Proprio dei paesi più vivaci da questo punto di vista? Vabbè, sicuramente, ad esempio per quel che riguarda l'Africa, paesi come l'Egitto, okay. E tutto il Nord Africa, o il Sud Africa producono molto rispetto al resto dell'Africa, sì, questo sì. Sono gli unici che hanno quella che si può dire un'industria cinematografica. Mm-hmm. Per quel che riguarda l'Asia, chiaramente il sud-est asiatico e paesi come la Cina e l'India producono molto di più rispetto ad esempio al Medio Oriente. Dire che ci sono dei paesi emergenti, ma io penso che ad esempio le Filippine, quest'anno abbiamo ben due film delle Filippine, tra l'altro abbiamo anche un membro della giuria che è una giovane attrice, si chiama Alessandra De Rossi, che è italo-filippina, quindi è nata, il padre è pugliese e lei è nata in Italia, poi è vissuta a Londra e adesso è diventata una mega star nelle Filippine, una star popolare ma anche di cinema di qualità, per dire che è stata, era a Berlino qualche mese fa con Love Diaz, ha girato film con Briante Mendoza, con Raya Marti, insomma con grandi cineasti filippini, e porta a Milano un film di un giovane esordiente che si chiama Scarecrow di Zig Dulai come attrice, e l'abbiamo invitata in giuria perché è stato per noi un incontro illuminante scoprire che fosse comunque un'italiana e fosse assolutamente sconosciuta in Italia e invece di grande successo nelle Filippine. Mm-hmm. Quindi le Filippine sicuramente sono un paese che da anni ormai però tra i più emergenti, anche l'Indonesia. Portiamo nella sezione flash, che volevo arrivare appunto anche a questa sezione, dove portiamo le anteprime fuori concorso ma di grandi registi, quest'anno invece abbiamo una forte presenza asiatica, perché abbiamo appunto indonesiani, Garin Nugroho, che è uno dei grandi registi dell'Indonesia, con Chaotic Love Poems, e poi portiamo in anteprima in Italia il film d'apertura del festival, che è l'ultimo film di Takeshi Kitano, Ryuzo and the Seven Henchmen, che è una commedia, quindi un titano che si confronta con il genere, e vabbè, potete immaginare il risultato è ironico, esilarante, insomma come il grande Big Takeshi. E poi abbiamo l'ultimo di Kim Ki-duk, Stop, anche questo in prima, non è ancora stato preso in distribuzione in Italia, io spero che lo sia perché è un bellissimo film, e tra l'altro è un film che ci porta un Kim Ki-duk insolito, perché è un film che è stato completamente girato da lui, montato, insomma fatto tutto da solo, quindi è un'opera, se vogliamo, come un po' un'opera delle origini, no? Un'opera sì, low budget, sì, sì, sì, che però porta con sé tutta la genialità e anche la provocazione di Kim Ki-duk. E poi un grande ritorno, il regista di Addio una concubina, che ricorderete il grande successo cinese degli anni 90, Chen Kai-ge, che presentiamo anche questo in prima europea a Milano con Monk Comes Down the Mountains, il monaco che scese dalle montagne, una meravigliosa opera esteticamente raffinatissima di cinema, di arti marziali, con tutta invece l'arte cinematografica del grande Chiang Kai-shek. Alessandra, per tutti i riferimenti del programma ci dai le indicazioni internet? Sì, festivalcinemaafricano.org. Benissimo. Allora, un saluto, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie. Ciao Alessandra. Ciao. Alessandra Speciale, co-direttrice della 26ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 4 al 10 aprile. Con questa chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari. Torniamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15.